È uscito in questi, al 5 di maggio, il DVD del film, e per fare, diciamo, il lancio di questo c'è stata un'operazione di co-marketing con loro, con la Fox, dove c'era anche la nostra pubblicità. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. L'archivio delle puntate lo trovate sul nostro sito www.radio24.it. Naturalmente potete scaricare le trasmissioni via podcast. Per comunicare con noi avete due possibilità. Radio 24 Italia in Controluce è il nome nel nostro gruppo su Facebook e la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna alle 6:30 di domani su Radio 24.